quale potete tranquillamente chiamare e esprimere le vostre opinioni. 800 24 00 24. E ovviamente saluto Michele Brambilla. Michele, ciao. Buongiorno a tutti. Vice direttore del quotidiano Il Giornale. Oggi sarà, come lo definisco ogni tanto, il mio ospite pensante. Ovviamente Michele è pensante già di per sé e l'ospite in genere lo è. Però sapete che, insomma, sottoposto a un fuoco piuttosto intenso di notizie, di cose, di riflessioni che gli sottopongo. 800 24 00 24, vi ripeto, è il numero verde se già state facendo le vostre riflessioni. E Michele, tra l'altro, è autore di un libro che è uscito da poco per Mondadori, che si intitola Coraggio, il meglio è passato, che mi sembra piuttosto pessimista, mi pare, questo che dici, Michele. Sì, è un po' autoironico. Coraggio, il meglio è passato, è una battuta che ho rubato a Flaiano. Naturalmente l'ho citato, altrimenti sarebbe stato un frutto con scasso. Grande fucina di battute. Grande Flaiano, fucina quindi di battute. Ed è un po' così, una carrellata sui nostri nuovi conformismi, le nostre nuove ipocrisie, i nuovi vizi, i nuovi tic, un ritratto che ho definito ironico della società italiana. Tra l'altro, appunto, conformismo, mi piacerebbe poi, mentre parliamo dei fatti di questa settimana, Michele, se tu avessi voglia magari di, se c'è qualcosa che si collega ai vari aspetti che tu hai trattato, no? A proposito dei tic degli italiani, del conformismo, tu per esempio per conformismo che cosa intendi? Conformismo è l'adeguamento a un modo di pensare che poi è un non pensare, cioè si va in automatico seguendo degli schemi prefissati e accettati da tutti, e sono degli schemi che ti mettono al riparo da critiche o da fare brutte figure in società. Dici delle cose che sono accettate dal comune pensare, dal comune sentimento, e quindi sei conforme a un modo di vivere accettato, ecco, è un modo per non essere rifiutati. Quindi sempre la paura di essere controcorrente, di essere un po' diversi a vari livelli, insomma, no? Di non far parte della tribù, perché se sei senza tribù dove vai? Soprattutto oggi forse, no, ma c'era il conformismo anche prima ovviamente, no? Nuove forme di conformismo oggi. Sì, infatti io parlo di nuovi conformismi perché ho pensato che i conformismi ci sono sempre stati, ovviamente, le ipocrisie anche, adesso sono cambiate, spesso sono il rovesciamento estremizzato dei conformismi di una volta, però siamo ancora fermi a 30 anni fa nella definizione della parola conformismo, cioè si ritiene che sia, come dire, ipocrita, bigotto, conformista un comportamento che lo era 30 o 40 anni fa, ma che adesso paradossalmente è diventato fuori moda e quasi rivoluzionario. Ci sono dei nuovi luoghi comuni. Non so, io faccio degli esempi molto banali. Una volta c'era nella famiglia l'ipocrisia di non far vedere che un matrimonio andava male, quindi c'erano i separati in casa. Bravo, no? Dice non ci sono più gli amori di una volta, ma prima, soprattutto perché le donne subivano molto in silenzio, adesso un po' meno quando si stufano. C'era questa figura del separato in casa che venne poi messa alla berlina molto bene da quelli della notte. E adesso, al contrario, c'è una nuova ipocrisia che vorrebbe far credere che le famiglie super allargate con 50 nuovi fidanzati e fidanzate di mamma e papà siano un toccasana per i figli, invece spesso dietro ci sono delle sofferenze di cui non si vuole parlare. Insomma, è così come per l'accoglienza degli stranieri. Una volta eravamo, secondo me, molto più chiusi di oggi. Oggi a volte si arriva a eccessi grotteschi, tipo vietare di festeggiare il Natale in una scuola, in un asilo, per rispetto di un bambino solo, magari, che è un'altra religione. Insomma, ci sono un po' delle esagerazioni che cerco di mettere un po' in ridicolo. Sai, Michele, che mentre mi accingo tra poco a provare a sottoporti alcune notizie di questa settimana e ovviamente gli ascoltatori, vedevo che fai degli scarabocchi mentre parli. Allora uno potrebbe dire, ma scusa, ma stai attento a quello che dici pure. Ed è, siccome una ricerca proprio di questa settimana, e me la sono ritagliata, è La vendetta degli scarabocchi, era il titolo, mi pare, del Corriere di questi giorni o di Repubblica, e diceva che uno studio inglese rivela che i disegni aumentano del 29% la capacità di seguire un discorso di chi insomma sta parlando, no? Dice più attenti, concentrati, mnemonici in effetti di chi gli scarabocchi non li fa. Lo afferma un esperimento condotto dai ricercatori del reparto scienze cognitive del Medical Research Council della Cambridge University. Quindi scarabocchiare mantiene una più alta concentrazione. Avevo calcolato forse un 29% di efficacia. Poi lo analizziamo con lo scarabocchio dopo con calma. Ma tra le notizie della settimana, ovviamente oggi i primi titoli. I titoli delle prime pagine sono il PIL dell'America che crolla, che è crollato, insomma la situazione, la crisi, lo sappiamo. C'è l'accordo sul nucleare tra Francia e Italia con le varie polemiche, chi pro, chi contro, eccetera. A proposito sempre degli Stati Uniti, il ritiro, l'annuncio di Obama, il ritiro delle truppe dall'Iraq sarà, finalmente c'è una data, si parla del 2010, al massimo 2011. L'infinita vicenda Englaro, che sembra veramente senza fine. Il disegno di legge sugli scioperi, la condanna di coloro che erano stati assolti qualche anno fa per il crollo della scuola di San Giuliano, insomma, ce ne sono sempre moltissime come al solito, però prima di tutto le solite interferenze da un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Che sulla Terra grosse fette di esistenza si avvino a diventare virtuali, forse perché la vita reale non ci piace più, non ci basta più, non lo so, comunque già lo si racconta insomma questa contaminazione col virtuale da un po'. Ora, per essere al passo coi tempi, vi si aggiunge anche lo sciopero virtuale. Prevede che un lavoratore dichiari l'astensione dal lavoro, in realtà però presta comunque la sua attività reale, perdendo la retribuzione reale anch'essa. Lavorare troppo comunque fa male, ormai è scientificamente provato. Secondo uno studio finlandese dell'Istituto di Medicina Occupazionale di Helsinki, col passare degli anni chi lavora più di 55 ore a settimana è a rischio di declino mentale che può portare anche alla demenza reale, non virtuale. Che sia forse questo il motivo di questa diffusa mancanza di equilibrio psicosociale. Bisogna in ogni modo trovare una mediazione tra i fannulloni e i dementi. Ma non è solo l'eccesso di lavoro reale che può dare demenza, perché la stessa cosa succede con l'eccesso di attività virtuale. Facebook, per esempio, danneggia il cervello, riportandolo a uno stato infantile e limitando la soglia d'attenzione e la capacità di comunicare al di là dello schermo. Questo almeno secondo le dichiarazioni della neurologa Susan Greenfield, docente a Oxford, che in un dibattito alla Camera dei Lord ha invitato il governo a preoccuparsi dell'impatto psicologico che internet può avere sui giovani. La PlayStation sembra essere poi la causa di una nuova forma di dermatite. L'eccessivo uso della Play sembra infatti avere causato una malattia battezzata idrosadenitis palmare in una ragazzina di 12 anni. A darne notizia esperti del Policlinico Universitario di Ginevra, dove è stata ricoverata la piccola. E se c'è una cosa che certamente non è virtuale, è questa crisi economica globale. Tanto reale è questa crisi che alcuni stati americani hanno proposto di abolire la pena di morte. Perché? Semplice, costa troppo. L'esecuzione di un omicida, ha spiegato il governatore del Maryland, costa 3 volte che mandarlo in carcere. Ecco forse cosa si intende quando si dice che dalla crisi possono nascere delle opportunità. Che dici, Michele? Possono nascere delle opportunità dalla crisi? La crisi è un momento di crescita per definizione, per cui sicuramente se vissuta e affrontata bene può anche produrre esiti positivi. Qualche giorno fa ho fatto un'intervista a un regista che io amo molto, che è Pupi Avati, e mi diceva che i suoi attori migliori non sono quelli che hanno fatto le migliori scuole di recitazione, ma quelli che nella vita hanno sofferto, hanno dovuto affrontare delle crisi, perché questo li rende più sensibili, più capaci di esprimere delle emozioni, dei sentimenti. E quindi sicuramente la crisi è un male, che resta un male, ma è un male dal quale si può anche ricavare un bene. Di solito senza crisi non si cresce. Quindi un momento, un'occasione di crescita. Tra l'altro sentono la crisi evidentemente anche i merluzzi, perché notizia di ieri o dell'altro ieri è che un giovane inglese aveva smarrito lungo la costa meridionale dell'Inghilterra il suo cellulare, e dopo 7 giorni è stato ritrovato da un pescatore, pensate, nella pancia di un merluzzo. merluzzo gigantesco di 11 kg e questo cellulare, una volta ripulito, vabbè, è rimasto un po' puzzolente, però funziona, funziona benissimo. E questo pescatore ha detto: i merluzzi d'altronde sono pesci molto avidi, mangiano qualsiasi cosa, hanno teste e bocche gigantesche, e gli è capitato questo cellulare. Però insomma, da una parte una buona notizia, dall'altra anche questo potrebbe essere un sintomo, insomma, della crisi: si mangiano i merluzzi, si mangiano i cellulari. E cominciamo a sentire chi c'è all'800 24 00 24. Antonio da Torino. Antonio, buongiorno. Buongiorno Antonio. Ma così, telefono perché a me ha colpito in modo particolare una notizia. Sì. Una notizia di ieri, tra l'altro, la notizia di un suicidio. Notizie che peraltro, ahimè, giungono così alla ribalta, diciamo, della cronaca solo quando hanno delle conseguenze, diciamo, non solo sulla persona che ha commesso questo gesto. C'è stata una persona che si è suicidata, un esponente politico, ha immediatamente trovato le motivazioni e poi dopo si è, come dire, sentito che forse c'è qualche cos'altro dietro. Ecco, direi che sono rimasto colpito perché è un suicidio, che è un dramma. Tu stai parlando di Mastro Lorenzi, l'uomo di 65 anni che aveva ucciso, mi pensavo, qualche anno fa due malviventi, diciamo, nel suo negozio. Questo gioielliere, sì, che sì. Ha avuto questa, diciamo, disavventura, non so come definirla, questa sua storia personale, che secondo qualcuno addirittura ha condotto, poi per le decisioni di un giudice, al suicidio. Beh, poi dopo si è scoperto che c'è ancora qualcos'altro. Ecco, è un momento forse dove, io direi soprattutto, la politica dovrebbe fare molta attenzione a prendere immediatamente posizione. Ecco, così come noi cittadini dobbiamo, genitori, nipoti, zii, dobbiamo fare molta attenzione quando siamo accanto ai nostri cari, alle nostre persone, a spiegare, a, come dire, insegnare determinati comportamenti, atteggiamenti, paure. Dobbiamo insomma stare vicino a loro cercando di far carico delle nostre esperienze. Sarebbe forse meglio che tutti, soprattutto chi è ai più alti livelli, diciamo, della cronaca, lo dovrebbe fare, ecco. Antonio, tu ti stai riferendo, scusa, al fatto che lui era stato prima indagato per omicidio colposo, insomma, eccesso di legittima difesa, e dopo invece è stata commutata, diciamo, questa condanna per omicidio volontario, giusto Michele? Ti ricordi bene anche tu? No, e tu stai dicendo quindi che questa cambio di imputazione che può aver portato, anche se sembra che invece la pista sia passionale, perché aveva quasi ridotto, almeno ascoltando la notizia, la concausa è stata immediata, perché non è stato detto una persona si è suicidata, era il gioielliere che due anni fa aveva questo fatto di cronaca. Ecco, ma quello che tu, Antonio, su quello su cui non sei d'accordo, che sia stato attribuito il suicidio, no, il gesto, a questa condanna, oppure non ho ben capito la... No, non sono d'accordo sul fatto che a freddo, notizia, un suicidio del gioielliere, per cui un suicidio con un nome e un cognome, sì, immediatamente un esponente politico abbia tratto le motivazioni del suicidio. Ah, ho capito. Secondo me questo è gravissimo. È gravissimo perché è un momento in cui bisogna tutti quanti pensare due volte prima di parlare. Grazie. A maggior ragione un esponente politico, di qualsiasi, voglio dire, no? Sì, qualsiasi schieramento. Antonio, forse c'era Michele Brambilla che voleva dire qualcosa. Ha colpito moltissimo anche me questa vicenda, e penso che non dobbiamo fare della psicanalisi da strapazzo e cercare di attribuire a questo o a quella causa il motivo del suicidio. A me però ha colpito una cosa, e cioè di come un atto malefico produca poi delle conseguenze a catena quasi infinite. Cioè, quest'uomo ha subito, alcuni anni fa, aveva subito una rapina, e quindi il primo male lo fanno i rapinatori. Poi lui spara uccidendo i rapinatori, e per carità, capisco la legittima difesa e tutto, ma sono convinto che quest'uomo, come molti altri che hanno reagito così, in qualche modo poi si siano pentiti di avere preso le armi. Uno prende la pistola per difendersi e crede di avere tutte le ragioni del mondo, però quando la usa e uccide capisce di aver fatto qualcosa che è irreparabile. E questo è il secondo anello del male. E poi ti resta uno strascico giudiziario che peggiora, ti arriva un'accusa di omicidio volontario che potrebbe, non lo so, potrebbe anche essere un accanimento. E quindi questo litiga con la sua compagna, sua moglie, non so chi fosse, e addirittura arriva a picchiarla. Quindi c'è tutto un progredire. Mi viene in mente il titolo di un romanzo di moltissimi anni fa che si chiamava I nostri atti ci seguono, no? E veramente c'è questa catena infinita che poi diventa difficile da spezzare, che pare che in questo caso abbia poi prodotto questo esito tragico. Continuiamo allora con le vostre notizie della settimana, numero verde 800 24 00 24, sempre con me Michele Brambilla, vice direttore del giornale, autore di un libro appena pubblicato, Coraggio, il meglio è passato. C'è Nicola da Milano. Nicola, buongiorno. Buongiorno a tutti. Come va? Bene, grazie. Tu come stai, Nicola? Che fai di sabato, a parte ascoltare Non ci sono più le mezze stagioni qui a Radio 1? Lavo i piatti. Lavi perché piatti. Sono single e ho appena finito di pranzare. Questa cosa, questo quadretto mi piace molto, Nicola, ma perdonami se io da femminista, e non mi vergogno mai di dire questo termine, ti chiedo, quella giustificare perché sono single, nel caso avessi avuto una compagna accanto a te, non li avresti lavati i piatti? Assolutamente no, abbiamo in varie esperienze abbiamo diviso sempre a metà. Bravo. Complimenti, ci mancherebbe, giusto. Molto bene, dopo fatto questa premessa, caro Nicola, di cosa vuoi parlare? Allora, innanzitutto non è che non ci sono più le mezze stagioni, io direi che non ci sono più le stagioni, perché viviamo in una perenne mezza stagione, in quanto i periodi di crisi, cioè di passaggio, sono sempre passaggi da uno stato di equilibrio ad un altro. E in questo momento, come dire, stati di equilibrio non ne vedo. Ma stati di equilibrio è difficile, non so, tu Michele ne hai vissuti di stati di equilibrio, a parte dal punto di vista tuo strettamente personale, ma anche dal punto di vista strettamente personale l'equilibrio difficile. È sempre abbastanza precario. Mi ricordo che anni fa ero andato a intervistare Vittorino Andreoli, lo famoso psichiatra. E arrivando a casa sua si ha l'impressione che questa casa sia una forma di triangolo, un tetto a spiovente. Poi invece girandole dietro si vede che è un cubo che è appoggiato su una punta ed è una casa che pare assolutamente impossibile che si regga su. Solo Vittorino Andreoli. E allora gli ho chiesto ma che razza di casa ha fatto? E gli metto, l'ho fatta fare da un architetto perché simboleggia la precarietà dell'equilibrio umano. Siamo sempre appoggiati a un punto di poca stabilità, quindi Nicola, in realtà diciamo che uno stato forse permanente, ecco, dell'esistenza umana. Ma comunque, detto questo, qual era la tua notizia della settimana, Nicola? La seguente. Sì. Proprio perché dobbiamo arrivare a dei punti fermi o comunque dei punti meno mobili rispetto ad altri. Se possibile, sì. Il presidente Obama investe in sanità, cioè salute pubblica, sì, e istruzione. Istruzione, certo. Cosa facciamo noi in Italia? E energia rinnovabile. Cosa facciamo noi in Italia? Punto di domanda, e vi lascio qui. Grazie Nicola, grazie. Grazie. Ti lascio allora al tuo menage da single. Ma a questo proposito, Michele, vediamo se ritrovo dove avevo messo. Eccolo qua. Sappiamo, no, che tra le notizie grosse di questa settimana c'è stato l'accordo sull'energia nucleare tra Francia e Italia, quindi tra Sarkozy e Berlusconi. Qualcuno lo sai, dal referendum che c'era stato in Italia, insomma, gli italiani non è che siano mai stati molto propensi, però molti dicono, insomma, non possiamo dipendere sempre dal petrolio, dobbiamo cominciare a diventare autonomi, dobbiamo bastare a noi stessi. Poi ci sono ormai le centrali di quarta generazione che quindi dovrebbero essere più sicure. E poi invece ci sono quelli che dicono, non so, per esempio c'era Emma Bonino in questi giorni, la senatrice radicale eletta nelle liste del PD, che diceva, in realtà a me sembra che questa cosa convenga solo alla Francia, perché saranno pagate queste centrali soprattutto con contributi pubblici, quindi con i soldi dei contribuenti, e in più E in più diceva, resta sempre la questione delle scorie, il fatto che queste centrali saranno di terza generazione, non di quarta, e che la Francia, guarda caso, la sua tecnologia nucleare è stata rifiutata anche dalla Finlandia e viene a investire qui da noi. Che cosa ne pensi tu, Michele? Io ne penso che faccio fatica a pensare, nel senso che qua ci vogliono davvero delle competenze che noi non abbiamo. Sono pochissimi coloro che possono dire una parola certa sul nucleare, così come su tante altre cose tecniche. La prima reazione è che, vabbè, se le centrali sono pericolose, tanto vale farle anche in Italia, perché ce le abbiamo a pochi chilometri di distanza, e tutto il mondo va avanti così, le risorse tradizionali non bastano, cioè. Dopodiché io, francamente, che non sono un ultra ecologista, anzi, ma è tutta questa fede nella scienza non ce l'ho, perché neanch'io. Quante volte ci vengono a dire ma ormai la terza generazione, ma la quarta generazione, poi dopo passano pochi anni e ci vengono a dire che quella generazione era ormai una obsoleta, porcheria, già, sì. Ma finalmente ci siamo liberati da un pericolo, adesso abbiamo un'altra tecnologia. Quindi io credo che l'umanità oggi, io ho fatto un capitolo nel libro che si chiama Scienza basta la parola, a questa nuova religione della scienza, della tecnologia, che è un po' pericolosa. Tra l'altro, adesso, al di là di avere le competenze o non le competenze, sono piuttosto d'accordo con te, Michele Brambilla, e comunque, allora, Cappellacci, che qualcuno chiama governatore, a me piace dire ancora presidente della regione Sardegna, che ha vinto da pochissimo le elezioni, no, contro Soru, ha detto subito, immediatamente, testuali parole: da noi nessuna centrale in Sardegna, dovrebbero passare sul mio corpo prima di fare una cosa simile. Quindi della Sardegna niente, esclusa già la Sardegna, nonostante sia stato molto, ovviamente, tantissimo sostenuto da Berlusconi. Vendola, che invece è centrosinistra, però Cappellacci è centrodestra, il presidente della regione Puglia dice: la Puglia si presenta come territorio off limits per qualunque ipotesi di centrale nucleare. Quindi abbiamo già escluso Sardegna e Puglia e lì non le vogliono. Ora la domanda resta: dove si faranno queste centrali nucleari? E Panorama, che ho qui di questa settimana, ha fatto un sondaggio tra gli italiani che dicono: bah sì, tutto sommato le centrali nucleari, dunque, mi pare che siano al 53,7% favorevoli, ma non nel mio giardino. Questa è la seconda. Quindi resta il problema di sapere in quale giardino si faranno queste centrali nucleari, e poi anche che cosa si farà delle scorie, visto che già la spazzatura di Napoli, e non solo di Napoli, non si sa dove mettere, e per le scorie mi sembra che la questione sia un po' più complessa. Neanche, no? Le carceri non le vuole nessuno. No? Cioè, tutta la gente, no, dice carceri, bisogna metterli, vabbè, in galera, dice... ma poi nessuno vuole il carcere vicino a casa propria. La sindrome dell'armiamoci è partita. È partita. E c'è Giovanna da Vicenza. Giovanna, pronto? Pronto Giovanna? Pronto? Sì, buongiorno. Senta, ciao, io è la prima volta che chiamo, però cerco il battesimo poter... allora oggi, sì. Come? Il battesimo della telefonata qui, non ci sì, sono più le mezze stagioni. Non sono tanto portata, però c'è un argomento che veramente mi interessa molto, anche perché per alcuni casi di una mia zia, di una mia famiglia, sì, ho riscontrato nella giustizia che non siamo molto... Io ho molto fiducia nella giustizia, ma purtroppo nelle persone che hanno la veste rappresentativa, perché secondo me queste persone dovrebbero fare un test prima, sia di umanità, sia di persone che hanno anche, diciamo, una responsabilità verso il cittadino. E mi sembra che tante facciano le cose così, tanto per fare, oppure per non dire altro. Stai parlando di magistrati, Giovanna? Stai parlando di chi amministra la giustizia? Sì, magistrati e anche giudici. E poi volevo anche dire una cosa che nessuno ha mai parlato fin d'ora, perlomeno per quello che io ho sentito, che il cittadino è proprio trascurato, non è tutelato, perché non può parlare col giudice, non può parlare col presidente del tribunale, non può parlare con un procuratore. Cioè il cittadino proprio viene trattato in una maniera come un pezzente, ma deve sempre avere un avvocato, e magari un avvocatone di quelli di grido, che magari alcuni avvocati poi dicono: sa signora, Lei ha una causa, ma noi ne abbiamo anche 50 cause, perciò se ci scontriamo con questo giudice, poi noi ci rimettiamo per tutte le altre cause. Perciò è, diciamo, una catena di Sant'Antonio, che il giudice capisce queste cose, gli avvocati altrettanto, e chi poi paga? Il cittadino, magari quello più semplice, quello più modesto, quello con meno possibilità, e pur inoltrando tante volte anche delle richieste per essere sentita, per essere ascoltata, perché se anche se si ha l'avvocato, perché purtroppo, mi dispiace dirlo, ma non è che dico una cosa, un'eresia, cioè gli avvocati tante volte si mettono d'accordo con le parti. E insomma Giovanna, è chiaro quello che dici, insomma le difficoltà spesso a muoversi nei meandri, non solo della giustizia ma anche della sanità in tanti settori, però mi sembra Michele, questo è un problema annoso che riguarda l'Italia, è uscita cos'era forse 2 settimane fa la classifica secondo la quale noi come lentezza anche della giustizia, come efficienza siamo addirittura sotto paesi dell'Africa, no? In classifica. Sì, ma la giustizia umana non può essere perfetta, questo è ovvio, però in Italia effettivamente c'è una lunghezza dei processi che credo non abbia eguali, e anche per casi banali uno prima di ottenere giustizia deve aspettare, soprattutto la giustizia civile sto parlando. Poi c'è quella penale sulla quale si sono fatti dei film sugli errori giudiziari, si sono scritti dei libri, Detenuti in attesa di giudizio, con Alberto Sodi, un film... Certo, che non riguarda solo il nostro paese. Capita a volte di imbattersi in una persona, perché poi il giudice è una persona, un uomo che sbaglia e si entra in un tunnel devastante. 800, grazie a Giovanna da Vicenza, 800 24 00 24, adesso c'è una piccola pausa, ma questo è il numero al quale se volete chiamare, esprimere le vostre opinioni sulle notizie della settimana, potete farlo in piena libertà. C'è tra poco Giuseppe da Siena, Carlo da Pavia, e vi chiederei, per esempio, visto che l'abbiamo lanciata lì, chi vorrebbe la centrale nucleare nel proprio giardino, o un'altra notizia sulla quale mi piacerebbe anche sapere un po' la vostra opinione, questa storia di questa conduttrice in Gran Bretagna che presentava un programma per bambini senza un braccio, i genitori si sono rivoltati e hanno detto no, noi non vogliamo un tipo di persona così che in qualche modo può impressionare i nostri figli. Rieccoci insieme, di carne al fuoco come si dice ce n'è moltissima. 800 24 00 24 tra le notizie che vi elencavo, altre cose che sono venute fuori strada facendo. Qual è la notizia che vi ha colpito questa settimana? Quali sono i commenti che avete voglia di fare? C'è Giuseppe da Siena, sempre al numero verde, che ripeto perché ogni poco qualcuno magari si mette in ascolto. 800 24 00 24, ricordo che mio ospite oggi è Michele Brambilla, vice direttore del giornale. Giuseppe. Salve. Ciao, grazie. Giuseppe. Qualità. Grazie a te dell'intervento. Anch'io sono una new entry, visto che c'è un direttore di un grande quotidiano, affrontiamo l'argomento anche con una risposta da parte di persona competente. Intanto, persona competente? Beh sì, certamente, lui come direttore di giornale. Ah sì, no, pensavo che tu stessi per esprimere su una questione sulla quale ci voleva una particolare competenza, ma immagino che ne avrai di competenze, ma... Oggi su cosa ti vuoi soffermare, Giuseppe? Mi interessava comprendere come mai tanti ascoltatori chiedono da Obama qualche cosa di, secondo me, poco possibile. È appena arrivato, va visto effettivamente quali capacità ha come uomo e anche come insieme di pool di persone che gli danno supporto. Non si può pensare di equiparare l'Italia all'America chiedendo noi cosa facciamo. Oggi abbiamo visto su una rete nazionale della RAI l'ospedale già finito 10 anni fa in Calabria. E l'America è un paese che si caratterizza per l'assistenza sanitaria con la carta di credito sulla pancia quando entri in ricovero. Ah, certamente, meglio non ammalarsi se non si hanno grandi possibilità negli Stati Uniti. Chi tenta paragoni estremamente arditi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America vuol dire che non conosce l'America sicuramente, forse poco anche l'Italia. Noi abbiamo eccellenze nella città in cui io vivo, ad esempio c'è una struttura sanitaria d'eccellenza, certamente, che è d'eccellenza, e difatti è sempre piena di gente che arriva da tutti i posti d'Italia, e questo è solamente un esempio che se si andrà avanti con il sistema di dare denaro solo a chi cresce nei livelli qualitativi di resa al pubblico, probabilmente taglia fuori gli incapaci e gli inefficienti e anche quelle strutture che sono troppo pressate dalla parte più che politica direi di controllo del territorio. Io uso definirla così perché in realtà i politici ogni 4 anni cambiano, ma l'apparato tecnico è quello che rimane a vita fino alla pensione ed è quello con cui vanno fatti i conti. Grazie Giuseppe. Certo, probabilmente una delle cose cui si fa più riferimento ultimamente da quando è stato eletto Obama è questo suo investire sulle energie rinnovabili, probabilmente perché comunque, anche se ovviamente l'America è tutto un altro paese, è un'altra storia, un altro futuro e un altro presente, quello dovrebbe essere prima o poi l'obiettivo un po' di tutti, chi ci arriva prima, chi ci arriva dopo. Per il momento sembrerebbe, no Michele, comunque la meta quella un po' inevitabilmente. Carlo da Pavia, Carlo. Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie Carlo. Il motivo della chiamata è, volevo commentare l'archiviazione del caso Sacca, in modo particolare come ne è stata data l'informazione dalla vostra emittente. Sì, io di Agostino Sacca. Ho sentito da Ferrara una trasmissione con Sacca presente e senza controparte, dove è stata fatta la santificazione di Sacca. E in serata il dottor Cruciani nella sua trasmissione ha affermato che Sacca da questa vicenda ne è uscito a testa altissima. Allora, per me è evidente che sulle intercettazioni, su delle intenzioni di mettere in atto dei comportamenti non certo corretti, non vi poteva essere una condanna da parte di un giudice. Ma da qui a dire che i due personaggi ne sono usciti a testa altissima, ce ne corre. Mi sembra che questo, come è stato fatto ieri nel corso della giornata in queste due trasmissioni, sia un modo distorto e non corretto di fare informazioni. E un po' sono deluso perché ho sempre riconosciuto a Radio 24 un buon grado invece di informazione corretta. Carlo, ti ringrazio e devo dire sinceramente, appunto per i miei orari di lavoro non ho poi occasione di ascoltare anche i colleghi, di solito c'è sempre un confronto, poi ci sono anche trasmissioni differenti, anche questo dà la varietà alla radio. Io non posso dire perché non ho ascoltato, però insomma il fatto che è stato contestato a Sacca più o meno si conosce, insomma avrebbe su richiesta, sembra, del presidente del Consiglio Berlusconi forse raccomandato qualche subrette. Questa era notizia, no Michele? Sì. Francesco da Cremona al numero verde 800 24 00 24. Sì, pronto, mi sente? Sì Francesco, ti sentiamo benissimo. Buongiorno. Sei in viaggio? Sì, sono in viaggio, come spesso mi capita. Per diletto o per lavoro? No, per lavoro purtroppo. Per lavoro. Posso chiederti cosa fai, se vuoi? Mi occupo di apparecchiature elettromedicali. Ah, e quindi sei... Vendita di apparecchiature elettromedicali. Ho capito. A volte ci si dimentica anche che ci sono questi lavori un po' particolari, no? Siamo un po' più o meno tutti, quando si parla di lavoro abbiamo delle idee abbastanza stereotipate, ci sono un tot di mestieri, invece ci sono anche lavori come questi. Qual era la tua notizia, Francesco, il tuo commento? Ma sostanzialmente volevo precisare l'elemento legato al nucleare. Sostanzialmente sento dire spesso... costruiamo le centrali perché servono varie ragioni, però l'aspetto più che viene sempre sottolineato, sì, intanto abbiamo già delle centrali in Svizzera, abbiamo già delle centrali in Francia, ma secondo, almeno questa è la mia modesta opinione, noi non dovremmo giustificare la costruzione col fatto che abbiamo già delle centrali vicine, anzi dovremmo lottare, se non siamo d'accordo, per convincere gli altri a eliminarle. Quindi mettere una situazione che comunque di quarta generazione, terza generazione, comunque potrebbe essere una situazione di rischio solo perché all'estero o nei territori vicini ci sono già delle situazioni che possono creare dei rischi, insomma mi sembra un po' comunque un'argomentazione abbastanza superficiale. Questa era semplicemente la mia considerazione. Grazie, banale, e ti ringrazio. Ma no, non sono mai banale. Una macroscopica proprio della situazione. Grazie Francesco. Intanto voglio chiedere, prima di Tino da Milano, sempre al numero verde 800 24 00 24, tu ti volevo sottoporre, Michele, due notizie, scegli tu quella che preferisci, quella della gaffe di Berlusconi, ancora non si capisce che cosa abbia detto a Sarkozy, se je t'ai donné la donna, quindi Carla Bruni sarebbe una donna italiana, però, cioè, e mi pare che per questo sia stato ci sia una denuncia alla Corte europea da parte di due parlamentari del centro-sinistra, anche se non so se sia possibile proprio per la questione del lodo Alfano, non so se è possibile denunciarlo perché offende le donne, ci sono vari poi esempi che portano questi due parlamentari, oppure se preferisci andare su quella notizia che citavo prima di questa conduttrice inglese di un programma, se non sbaglio sulla BBC per bambini, e che ha creato un po' di disagio, malcontento nei genitori, perché dicono no, non potete metterci in televisione i nostri bambini per vedere una signora senza braccio, perché cominciano a fare domande, si impressionano, si incupiscono. Cosa ne pensi? Beh, su questa seconda, la prima cosa mi sembra un po' una pagliacciata su cui si sta perdendo davvero del tempo. Ci sono le gaffe, ci sono le denunce esagerate, insomma. Sia una che l'altra, quindi sia la gaffe che la denuncia, dice esagerata. Ci sono delle espressioni colorite a cui siamo abituati. Che forse però a volte sarebbe meglio evitare, che sì, dici? Lo penso anch'io, ma poi dopo stare lì a fare denuncia al Parlamento europeo mi sembra veramente eccessivo. E poi Palazzo Chigi ha smentito. Sì, non dice so, che non so era la donna, ragione, ma la Sorbonne. Insomma, comunque lì si doveva capire. Invece sull'altra l'altra questione? Cosa è veramente una cosa orribile, perché fa parte un po' di quelle ipocrisie di oggi. Una cosa non si deve vedere, finché una cosa non si vede va tutto bene, no? Se questa conduttrice fosse stata alla radio nessuno avrebbe eccepito, ma guai a far vedere che può esistere una disabilità, una malattia. Lo trovo davvero diseducativo per i bambini, cioè i genitori così facendo hanno danneggiato non soltanto questa conduttrice ma i loro figli, perché li abituano a non riconoscere la possibilità di un limite che può capitare anche loro, possono rimanere anche loro senza un braccio, certo. Le malattie ce le abbiamo tutti, insomma mi pare che sì, in un mondo dove in televisione vediamo le peggiori porcherie possibili e immaginabili, trasmissioni più idiote e diseducative possibili, e non solo nudità, ma vedo anche spesso delle cose estremamente violente anche in prima serata, la violenza e la stupidità che dilaga in televisione, poi ci lamentiamo se c'è una persona che non ha un braccio, insomma mi sembra veramente una pazzia. Qualcuno avrebbe anche così ipotizzato che in realtà c'è del cinismo da parte dei curatori del programma, perché l'avrebbero messa apposta per creare il caso, adesso non so se questo possa essere la motivazione o meno, però vogliamo dire che forse i bambini sono quelli che in realtà, come per esempio vedo i piccoli, no, all'asilo, già dalla scuola materna, che sono ormai in mezzo i bambini italiani, in mezzo ai bambini di tutte le provenienze, e non ci fanno difficoltà. Minimamente caso, e non chiedono perché quello ha la pelle così, perché l'altro ha i capelli così, niente. E forse anche lì, se siamo molto naturali alle loro domande rispetto a una cosa del genere, se ci abituiamo e sappiamo che la vita è fatta di tante cose, anche di queste, no? Non, certamente, hanno una facilità un'immediatezza di accoglienza no? Che è molto superiore a quella che noi possiamo immaginare, non abbiamo neanche bisogno di dirglielo. Siamo noi che ci irrigidiamo poi col tempo e si peggiora crescendo. Tino da Milano, il numero verde è 800 24 00 24. Eccoci Tino. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dunque il mio intervento è per Tino, scusami Tino, ma se io ti do del tu ti offendi, se tu mi dai del tu è un problema? No. Allora diamoci del tu. Io sono anziano, ho 76 anni e da noi non si usava il tu. Il tu si dava solo ai familiari, ma alla maestra, e così si diceva signora maestra. Però adesso siamo nel io posso dartelo del tu, tu puoi darmelo del tu o ci diamo del lei? Sì, io preferisco del lei. Allora diamoci del lei. Grazie. Bene. Senta, no, il mio intervento è questo, è sul nucleare. Sì. Ed è questo, secondo me non si spiega bene alla gente che cosa succederà. Cioè, per esempio, le scorie, mi scusi, le scorie in questo momento sono l'argomento principale, no? Come faremo le scorie? La gente pensa che queste scorie siano montagne, decine, centinaia di vagoni merci pieni di terra radioattiva e così. Non è così. Una centrale recente in un anno produce un metro cubo di scoria nucleare, un metro cubo, quindi sono poi non vengono scaricate così come si butta in una discarica qualunque, si mettono in una bara di piombo rivestita poi di cemento armato, 10.000 anni come minimo di durata, capisce? Mm-hmm. E quindi fra 10.000 anni, certo, saranno ancora leggermente radioattive, ma lei capisce, 10.000 anni forse è scomparsa l'umanità. Ecco, il discorso è questo, non, bisogna capire una cosa. Nel 1923, in provincia di Bergamo, crollò una diga, quella del Gleno, sì. Provocò 1.000 morti. Se la dovesse succedere adesso una cosa del genere, i morti sarebbero 10.000, perché l'antropizzazione è molto più diffusa. Poi c'è il Vajont, cioè anche lì energia pulita, certo, l'energia idroelettrica Ma lì pulita. C'erano speculazioni, si sapeva che il terreno era franabile, che non si poteva, questo è un discorso un po' diverso. Capito, e grazie al cielo sulle Alpi italiane ce ne sono più di 100 di dighe, 150, e non succede niente. Però è un discorso, se mi permetti Tino, un pochino diverso, ma naturalmente ognuno poi su questa questione esprime le proprie opinioni. Sono più d'accordo con Michele Brambilla che dice che... Sì, insomma... lei è d'accordo, mi scusi, poi finisco. Sì. Voglio con una massima. Prego. E dico, quando si accumula una qualunque forma di energia, il rischio zero non esiste. Capiamolo tutti una volta per sempre. Grazie Tino. Grazie a voi. Grazie. C'è Alessandro da Pescara al numero verde 800 24 0024. Alessandro. Sì, buonasera. Posso è un po' buio dalle tue parti? A Pescara? Sì, sono io. No, sono in macchina. Senti, e che tempo c'è da quelle parti? C'è sole, meno male. Poi sentiremo, tra poco c'è il colonnello Giuliacci, adesso ci dirà nei prossimi giorni se questa benedetta primavera ormai si è avviata definitivamente oppure no. E quindi Alessandro, di cosa volevi parlare? No, volevo parlare del discorso della sensibilità dei genitori verso i figli, dei disabili in televisione, sì. Ma poi avete risposto voi, quindi il mio intervento no. È abbastanza superfluo, avete risposto benissimo. Io benvengano... Michele Brambilla ha risposto, sì. Benvengano i disabili in televisione, perché... ci sono, possono essere i nostri figli, io sono anche un genitore, ci sono tante cavolate che si fanno vedere in televisione e questo sicuramente non turba nessuno, anzi aiuta a crescere. Grazie Alessandro, anche grazie se si capisce, grazie e buona continuazione di viaggio Michele, si capisce che per esempio le donne sono delle super pin-up, con i seni in un certo modo, le gambe in un altro, visie super giovane, già quello ti dice, se lo mettono donne comunque piacenti o intelligenti o un po' più grandi o meno dotate fisicamente, figuriamoci, no, anche da noi che effetto farebbe, perché noi parliamo della Gran Bretagna, ma chissà anche in Italia, no, se dovesse comparire. È vero, hai ragione, ed è anche possibile che questa emittente abbia colto l'occasione per fare un colpo pubblicitario, però è anche vero che questa paura del disabile noi la tocchiamo con mano anche in un ristorante, in una scuola, insomma quando c'è qualcuno che ha un handicap fisico visibile ci si spaventa. Io sono andato in un ristorante qualche giorno fa, ho detto che eravamo in tot persone più una carrozzina e intendevo la carrozzina della mia ultima figlia che ha 3 mesi, e quando ho detto carrozzina la padrona del ristorante ha detto come carrozzina, un handicappato? Dico no, una carrozzina per un neonato. Ha detto ah beh, allora tutto bene. Quindi è vero che c'è questa... e questo è veramente uno dei nuovi tabù, delle nuove ipocrisie che, insomma... tutti dobbiamo essere perfetti, impeccabili, il volto della gioventù, dell'energia, del glamour. Sempre insieme a voi, ascoltatrici e ascoltatori, Roberta Giordano, e con me c'è oggi Michele Brambilla, vice direttore del Giornale. Ci stiamo soffermando su tante notizie, ognuno col proprio punto di vista. Il numero verde è sempre aperto per voi, 800 24 0024. Tra poco c'è Massimo da Bologna, però è il momento adesso di interpellare il colonnello Giuliacci. Colonnello! Buongiorno Roberta, un saluto a tutti i tuoi e nostri ascoltatori. Caro colonnello, sei riuscito a uscire dai meandri del supermercato? Sei sempre lì? No, ancora sto tirando giù un pezzo da uno scaffale, ma è piacevole, no? Fare l'una e l'altra cosa. Sente un po' di rumore di fondo, però voglio dire, riprova che anche i meteorologi fanno spesa insieme alle proprie moglie, perché devono mangiare, devono vestirsi, devono, no? Uno non ti deve immaginare sempre lì con la sfera di cristallo tutto il giorno a guardare le nuvole che passano. Quando mi sentono magari insieme a te pensano che io sono seduto di fronte al computer a guardare le notizie di oggi. Invece in questo momento sono un comune mortale che sta facendo spesa per la comune sopravvivenza. Anche i colonnelli mangiano, anche i colonnelli fanno altre cose. Quindi... E hanno freddo o caldo. Ecco. Colonnello Giuliaci, allora, stavamo dicendo che questo barlume di sole qui a Milano e il fatto ieri che ho notato andando a correre nel parco che ci sono le prime margheritine e gli occhietti della Madonna, non so come li chiamano, con quei fiorellini azzurri, certo, occhietti di Gesù, poi che uno sia laico, credete, così pare si chiamino, significa che proprio basta, la primavera sta partendo, ci lasciamo l'inverno alle spalle? Diciamo la primavera è raramente parte in maniera decisa e continua, parte a strappi, adesso abbiamo 5-6 giorni di bel tempo, di temperature gradevole, la natura si accorge, incominciano i primi fiori, le prime margherite a tirar sulla terra, a tirar sulla testina dal terreno. Ecco, no? Poi, questo è un buon segno, no? È un inizio. Certo, sì. Buon segno, riprova che le temperature ormai sono in aumento, però attenzione, la primavera, come sempre dico, come mi hai sentito dire altre volte, anche i nostri ascoltatori già mi hanno sentito dire, non è fatta di uccelline che cinguettano a prati verdi e di cielo sereno che risplende dal mattino alla sera. La primavera appartiene un pezzo all'inverno e un pezzo è orientata verso l'estate. Proprio perché è una mezza stagione, no? Come si diceva. Appunto, giustamente. Per cui adesso avremo questi 5-6 giorni senza grossi scossoni. Sì, ci saranno nuvole da domani su gran parte d'Italia, anche delle piogge qua e là, quindi un cielo nuvoloso, ma siccome è portato da venti di scirocco non sentiremo freddo, ci saranno le nuvole qua e là, delle piogge, non diciamo dove, così non vi intristisco prima, eccetera. Chi ma se non le ritrova, tante piogge. Poi invece attenzione, tra giovedì e venerdì brusco inversione di marcia, perché ritorna il freddo, un pizzico ancora d'inverno, vedi, ecco quello che volevo dire, nel senso che la primavera dal punto di vista meteorologico, tra l'altro la primavera inizia proprio il primo marzo, quindi la primavera è fatta di queste fughe verso l'estate e improvvisi ritorni verso l'inverno. È timida, va un po' avanti, va un po' indietro. Sì, beh, è fatta così, insomma, voglio dire, del resto se uno pensa bene le passate primavere sono state tutte così, quindi no, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. No, forse dopo questo vero inverno così lungo, così concreto, così serio, forse c'era ancora più voglia di primavera, no, quest'anno? Ma questo è vero, ma paradossalmente proprio perché l'inverno è stato così lungo, così vero, c'era probabilmente le cause che hanno fatto sì che quest'inverno sia stato più freddo e più nevoso e più piovoso del solito, non è che smettono all'improvviso. Tocco, il primo marzo la natura si accorge che adesso siamo a primavera, cambiamo marcia. Un po' per volta. Vuol dire, è ovvio che ci sarà ancora una spinta di queste stesse cause a far sì che anche l'inizio di primavera, a mio giudizio, sia improntata più a una situazione invernale che a una situazione estiva. Con questo voglio dire, non buttate via cappotti e conservate ancora i maglioni, perché dovremo ancora... Ce n'è ancora un po'. Paradossalmente potremmo ancora sentir parlare tra fine settimana prossima di neve anche in pianura. Pure. Chissà. Lo metto come possibilità, non come certezza. Ci riaggiorniamo, no? Allora, senti, colonnello Giuliaci, per la colazione cosa hai preso? Cosa hai comprato? Qui, guarda, c'è mia moglie che sta a metà, vedo qui dei Ringo, dei biscotti, a noi piace molto mangiare il pesce, quindi abbiamo preso un po' di branzino, merluzzi con cellulare di salmone, eccetera, quindi ti aggiorno sulle mie spese. Questo non vuole essere un invito a fare altrettanto, ognuno ha i suoi gusti. Tanto scoprire anche dietro i personaggi. Certo. Colonnello Giuliaci, ti ringraziamo, ti auguriamo buona spesa nel frattempo. Grazie, buona continuazione, Roberta, di sabato. Un salutone a te e agli ascoltatori. Grazie, al prossimo appuntamento. Ciao colonnello. Quindi ciao. Michele, hai visto primavera, sì, insomma, qualche segnale, ma l'inverno è ancora, ce lo dobbiamo sopportare. C'è Massimo da Bologna, numero verde 800 24 00 24, mentre ringrazio, prima poi di arrivare di corsa alla fine, Gigi Borghi che come la DHL sta prendendo le vostre telefonate, lo vedo con più braccia dall'altra parte in assistenza in regia. Massimo, pronto Massimo, ciao innanzitutto. Ciao, grazie. Dunque, io volevo così dare la mia impressione su quel fatto appunto dei disabili, che quando i ragazzi vedono i disabili si trovano disagi, così secondo me è anche l'educazione che loro hanno. Ti spiego subito perché. Io sono, diciamo, io ho un handicap ma molto molto lieve, nel senso che io causa un incidente da molto piccolo sono diventato strabico, no? ho avuto praticamente 3-4 interventi negli occhi, però un po' quando cambia la stagione c'è un po' la convergenza che va un po' per i fatti suoi, no? Però diciamo che quando ero molto piccolo, cioè piccolo, insomma, che avevo 7, 8, 9 anni, e avevo gli occhi veramente, cioè praticamente mi guardavo, cioè erano tridimensionali, mi guardavo il naso, no? E io vedevo quando andavo ad esempio in autobus, andavo nei luoghi pubblici, così di solito non erano i ragazzini, i bambini che al limite so, ti guardavano incuriosito, era il genitore, di solito il padre, perché la madre è un po' più intelligente secondo me, di solito il padre gli dava di spalla, poi gli faceva segno con la testa, come di guarda quello là come è messo, no, così. Allora poi si mettevano a ridere, cioè che ti trovi anche a disagio, diciamo, poi sai, quando sei, poi sei un ragazzino, ti senti anche un pochettino così, un po' deriso. Certo, Massimo, ancora dà un po' fastidio. Massimo, allora, mi devi perdonare, io ti ringrazio moltissimo di questa testimonianza, della voglia di aver messo anche proprio la tua esperienza personale qui, diciamo, all'ascolto, al servizio, come vogliamo dire, degli ascoltatori. Ti chiedo veramente scusa perché mancano 2 minuti. Io non ho ancora interpellato Valeria Della Valle, che è la nostra linguista immancabile della Sapienza qui, e non ci sono più le mezze stagioni, che mi deve dare un po' il termometro della parola, del concetto che secondo lei ha caratterizzato i fatti di questa settimana. Scusami, Valeria. No, niente, lo farò in modo molto veloce, e voglio solo ricordare che proprio l'aggettivo virtuale in fondo è un buon esempio. Come si diceva. Le parole possono vivere per secoli in modo appartato e poi diventare di grande attualità. Nel 200 voleva dire virtuoso, poi ha cambiato significato e ha assunto questo valore di potenziale o anche teorico, ed è stata usata in fisica, in matematica, eccetera. Ma con il grande successo della parola è collegato un po' al mondo dell'informatica, no? Si è cominciato a parlare di memoria virtuale dei calcolatori, e poi di comunità virtuale, lavoro virtuale, immagine virtuale, fino a sesso virtuale. Anche il sesso, certo. Ecco, sesso virtuale, e poi, ecco, in questi giorni sciopero virtuale. Allora, intanto mi sembra che sia un aggettivo suggestivo, ma proprio da qui nasce il fatto che mi sembra una parola fatta apposta un po' per mascherare, per indorare la realtà. E se dicessimo sesso finto, sesso per finta, forse non sarebbe più così suggestivo come sesso virtuale, no? Sesso virtuale fa bello, sesso finto, falso, fa brutto. E vorrei chiudere con una domanda, come sì, al solito. E lo sciopero virtuale, ma non sarà, visto che se ne è parlato, anche questo un po' un caso di ipocrisia linguistica, in questo caso del mondo politico? Che cos'è lo sciopero virtuale? E al comune cittadino, chi è che traduce in senso proprio di che cosa si tratta? Lo sciopero c'è o non c'è? Grazie Valeria Della Valle, poi questa domanda magari con la risposta la rimandiamo ai prossimi giorni, perché sicuramente ci sarà occasione di riparlarne quando le cose entreranno appunto in vigore. Io intanto ringrazio moltissimo Michele Brambilla, grazie di essere stato qui, e sempre in regia, dicevamo, Giacomo Spunta, Gigi Borghi. Vi ricordo domani, se avete ancora pazienza e voglia di ascoltarmi, sono invece con la trasmissione Storielle, ci sarà Geppi Cucciari, attrice divertentissima, comica, di Zelig, ci saranno un po' di risate da fare, e Roberta Giordano a questo punto vi saluta e vi augura un solare, se possibile, fine settimana.